24. La storia. Immobile, la palla al centro del campo, ipnotizza nell'attesa 90.000 sguardi. A mezzogiorno le porte dello stadio hanno cominciato a riversare folla sui gradini. 10.000 auto nel parcheggio. Milioni di chilometri totalizzati intorno all'imminente partita. Quando si gioca contro gli inglesi, era veramente un grande avvenimento, perché sono sempre stati i maestri, quelli che hanno inventato quasi tutti gli sport che pratichiamo adesso. Evocati da applausi che segnano l'ora d'inizio come cronometri, emergono le squadre dagli spogliatoi. Inghilterra, Swift, Scott, Howe, Wright, Franklin, Cockburn, Matthews, Mortensen, Lowton, Mannion, Finney. Leggendo i giornali italiani e inglesi, erano loro i favoriti e si aspettavano di vincere. Quanto ai nostri, Pozzo ha sostituito Rigamonti con parola nella squadra che ha vinto a Parigi. Già gli interruttori delle radio hanno fatto scattare in tutta Italia i batticuore. Carosio racconta il rito dell'inizio. Allora ci fu questo grande avvenimento per cui il Torino, famosissimo, dei Mazzola, dei Gabetto, dei Compagnia Bella, come nazionale, schierò, non so quanti si schierarono, ma 8 undicesimi almeno, e affrontò l'Inghilterra che venne a Torino. I due paesi affidano a questi campioni la loro leale gara sportiva attraverso le note degli inni nazionali. La Ossola riserva e parola Pozzo forse ha qualche presentimento. Ma il dado è tratto. Gli inglesi viene offerto un gonfalone, agli italiani un bronzo della città di Torino. L'arbitro è Escartini, spagnolo. Pozzo esce dal campo. Passo meditabondo. Il 16 maggio 1948, Vittorio Pozzo è alla 95esima partita come allenatore della nazionale italiana. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di un pioniere del calcio, l'artefice di due consecutivi trionfi mondiali, che insegue l'unica vittoria che gli manca, quella contro l'Inghilterra, la patria indiscussa del calcio. Ma il match contro gli inglesi sarà anche l'ultimo di Pozzo come allenatore degli azzurri. Il congedo di un uomo la cui storia personale coincide con quella dei primi 50 anni del calcio in Italia. E quello che vi proponiamo è il ritratto di una figura carismatica dell'Italia del Novecento, del Pozzo giornalista e poliglotta, e poi del giocatore, del dirigente sportivo e soprattutto del leggendario commissario tecnico della Nazionale Azzurra. A raccontarcelo il figlio Alberto. I suoi inizi sportivi sono nell'atletica, atletica leggera. Correva i 400 metri. Un tale Goccione della Juventus gli dice: ma a correre senza niente davanti non ti senti un po' stupido? Noi corriamo dietro a un pallone, come quelle belle carrozze di una volta attaccate ai cavalli. Vieni a vedere, è andato a vedere, ha cominciato a giocare. C'è qualche immagine di lui giovanissimo nella squadra del liceo Cavour. Gennaio 1898. Vittorio Pozzo, appena dodicenne, è a Genova, culla del calcio italiano, per assistere all'incontro tra una squadra mista torinese e il Genoa Cricket and Athletic Club. Per pagarsi il viaggio da Torino e il biglietto dello stadio, il giovane Vittorio, insieme ad alcuni compagni, ha venduto i libri di scuola. È la prima partita documentata della storia del calcio italiano, come dichiara lo storico del Genoa, Aldo Padovano. Questa è una partita fondamentale nella storia del calcio italiano, perché è il primo incontro di calcio di cui abbiamo ogni tipo di documentazione giornalistica, documentazione anche addirittura del bordereau della partita. Sappiamo che gli spettatori furono 212 per un incasso lordo di 284 lire e 50 centesimi. Detratte le spese, il Genoa ebbe un utile di 64 lire e 45 centesimi. La famiglia manda Vittorio prima in Svizzera, dove si diploma all'Accademia Commerciale Internazionale, e poi, per perfezionare gli studi, in Inghilterra. Proprio grazie a questi lunghi periodi all'estero, Pozzo saprà parlare perfettamente 5 lingue. Nei suoi ricordi, però, il soggiorno inglese è soprattutto l'occasione per ammirare da vicino i grandi club come il Newcastle e il Manchester United. Torino, 3 dicembre 1906. In una birreria di Piazza Solferino nasce il Torino Football Club. Pozzo, dall'estero invia entusiasta la sua adesione alla nuova società, come ricorda il figlio di Vittorio, Alberto Pozzo. Toro è la squadra in cui Vittorio Pozzo è nato. Torino nasce nel 1906, lui ritorna in Italia, pensava di andare all'estero perché con antenati biellesi, c'era sempre la storia eventualmente trasferirsi in America, commerciare in stoffa eccetera, poi invece il calcio lo seduce sempre più. Nel 1911 diventa il primo allenatore del Torino. Lui che aveva studiato in Inghilterra, dove c'erano già gli allenatori, un giorno a quel del Torino dice: sapete cosa vi dico? Non basta un giocatore importante che vi guidi dal campo, che vi dica, ci vuole uno da fuori che veda tutte le cose, che vi dia le dritte eccetera. O basta la nauta pibela. Vittorio Pozzo è un dirigente della Pirelli, apparentemente avviato ad una brillante carriera, ma in realtà il suo futuro è legato indissolubilmente al mondo del calcio. Pozzo inizia a collaborare come giornalista con le varie testate sportive, per approdare infine alla Stampa. Del quotidiano torinese resterà inviato per tutta la vita, anche quando ricoprirà l'incarico di commissario tecnico della nazionale italiana. Milano, 15 maggio 1910. All'Arena Civica fa il suo esordio la squadra nazionale italiana, opposta alla Francia. Il primo capitano della rappresentativa italiana è Franz Kali. La maglia è bianca. Il punteggio finale è 6-2 per i padroni di casa, con 3 reti del milanese Pietro Lana. Nel 1911, in onore allo stemma sabaudo, la casacca diventa azzurra. Un anno più tardi, alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912, ad accompagnare la rappresentativa italiana è il 25enne Vittorio Pozzo, nominato da poco segretario della federazione. L'ossatura della squadra è formata da giocatori della Pro Vercelli, dominatrice dei campionati dell'epoca. Pur sconfitta dall'Austria di Hugo Meisl, l'Italia comincia a fare esperienza. Nascono i nostri primi miti calcistici. Su tutti il capitano Renzo De Vecchi, soprannominato il figlio di Dio, come conferma lo storico del Genoa, Aldo Padovano. Uno dei giocatori più importanti, non solo del Genoa ma della nazionale, giocò parecchie partite nazionali, soprattutto come capitano, organizzava la difesa, preparava il contrattacco, in un certo senso rappresentava una sorta di Beckenbauer dell'epoca. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di Vittorio Pozzo, giornalista, allenatore, alpino, commissario tecnico della nazionale. È il 1914. Pozzo in Sud America col suo Torino per un torneo contro le migliori squadre brasiliane e argentine. È la prima grande tournée all'estero di una squadra italiana, ma è anche l'ultima parentesi di serenità prima della Grande Guerra. Tra il 1916 e il 19 ogni attività calcistica viene sospesa. Anche il mondo del pallone paga un pesante tributo alla guerra. Tra dirigenti e tesserati i caduti saranno quasi 1000. Pozzo viene arruolato come ufficiale nel 3° reggimento alpini di Susa. Per lui sarà un'esperienza fondamentale. Agli ideali e ai modi della vita militare, infatti, si ispirerà anche la sua attività di allenatore. A raccontarcelo è Giampiero Boniperti, attaccante della Juventus dal 46 al 61. Quando mi ha consegnato la maglia della nazionale, ha parlato 4-5 minuti e io sono uscito un po' con le lacrime agli occhi e col cuore che mi usciva dal petto, perché mi ha descritto questo avvenimento come la cosa di un'importanza capitale. 1920. La guerra è finita da 2 anni, l'Italia torna a giocare a calcio e il calcio si accinge a diventare fenomeno di massa. Pozzo è a capo della commissione per la riforma dei campionati che nel 1929 porterà, dopo duri scontri, all'interno della federazione al girone unico. È la nascita del calcio moderno. Intanto però nel 1924 il giovane dirigente è stato chiamato di nuovo alla guida della nazionale. Stavolta Pozzo decide di avvalersi della collaborazione di William Garbutt, l'allenatore del Genoa, campione d'Italia, a cui si deve, secondo lo storico del Genoa, Aldo Padovano, l'appellativo di mister per gli allenatori di calcio. A Genoa lo chiamavano tutto mister Garbutt, e quindi si pensò che la parola mister in qualche modo fosse legata all'allenatore di calcio, e quindi da allora la parola mister nel gergo calcistico sta a indicare l'allenatore di calcio. Ma proprio nel 24 alle Olimpiadi di Parigi, l'Italia è ancora capitanata da De Vecchi e sconfitta nei quarti dalla Svizzera. Amareggiato, Vittorio Pozzo lascia la panchina. Pochi mesi dopo muore sua moglie, Caterina Recanzone. A raccontarlo Alberto Pozzo, figlio del secondo matrimonio di Vittorio. È rimasto vedovo nel 24, a 38 anni, con due figli piccoli. Qualche anno dopo poi si è sposato con mia madre. Da mia madre sono nato io, sono arrivato io circa 20 anni dopo, i due fratelli. Ecco, io sono l'ultimo, quello che in alcune occasioni ha fatto da portafortuna. Amsterdam, Olimpiadi del 1928. Guidata dall'alessandrino Augusto Rangone, l'Italia, qui impegnata a sconfiggere 4-3 la Francia, conquista la medaglia di bronzo. Combi, Caligaris, Rosetta, colonne difensive della Juventus, sono tra i campioni di quella squadra. Il fascismo intanto allunga la sua ombra anche sul calcio. Mussolini ha intuito che lo sport può essere un formidabile strumento di propaganda. Il nuovo presidente della federazione, il gerarca Leandro Arpinati, cerca di riportare alla guida della nazionale Vittorio Pozzo, un uomo che può vantare esperienza, professionalità e soprattutto un inattaccabile senso del patriottismo. Come ci raccontano il regista Mario Monicelli, il giornalista Antonio Ghirelli e poi il figlio Alberto Pozzo. La nazionale era molto seguita, gli italiani la seguivano molto, anche perché era molto pompata dal regime, dal duce. L'operazione politico-propagandistica che ha fatto Mussolini sullo sport è impressionante. Se si pensa che nel 25 lui ha puntato sullo sport come uno strumento di propaganda della sua ideologia. Giova ricordare, di mestiere lui era giornalista, come commissario unico non ha mai preso una lira, l'ha messa come condizione, non voglio essere pagato perché se mi pagano mi possono dare ordini, invece faccio di testa mia. Era un gerarca, il signore Pozzo, c'è poco da fare, si comportava ed era trattato dai mass media, come si direbbe oggi, come un gerarca. Era un conservatore. Più che un fascista era un conservatore, un nazionalista se vogliamo. Direi che se fosse nato 50 anni prima sarebbe stato un grande esponente della destra storica. Primo dicembre 1929. Dopo essersi dimesso definitivamente dalla Pirelli, Pozzo per la terza volta assume la guida della nazionale. Questa volta però resterà in carica per 19 anni e ben 87 incontri. A Rovetta si vive in una specie di clausura, ma essa viene interrotta per visite gradite. L'ospite è di casa, come noterete, dal movimento festoso incontra l'automobile. Infatti è il presidente della Federazione Generale Vaccaro che ha per tutti un sorriso, per tutti una buona parola. La Rovetta allo stadio Berta, di corsa in fila indiana. Gli azzurri ingoiano giri su giri di campo sotto il vigile sguardo di Pozzo e del generale Vaccaro. L'allenatore della squadra nazionale deve essere preparato a tal punto che pressioni non le deve recepire, ma deve essere in grado di dire: ma io sicuramente di queste faccende ne so più di quelli che magari mi suggeriscono cose diverse. Avete sentito Azeglio Vicini, l'allenatore della nazionale dall'86 al 91. In anni calcisticamente dominati da tre squadre, la Juventus, il Bologna e l'Ambrosiana Inter di Giuseppe Meazza, ha inizio un periodo magico per la nazionale italiana. Sotto la guida di Pozzo, gli azzurri vincono due coppe internazionali, due mondiali e una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. La tecnica di Pozzo si fonda sul cosiddetto metodo, come spiega il giornalista Antonio Ghirelli. Il pernio del gioco metodista era il centro mediano. Il centro mediano era un, come poi si è chiamato, un playmaker. Cinque giocatori difensivi e cinque offensivi, con il centro mediano metodista a fare da ponte tra difesa e attacco, un ruolo rivestito più volte dal romanista Ferraris IV. Ferraris IV era il giocatore, per lui simbolo, per Pozzo. Era un fighter, era un combattente, aveva una vita personale, lui poi ha fatto il croupier quando ha finito di giocare. Quello che ha inventato il motto, io mi scuso, ma questa è una cosa popolare molto bella, il motto alla Roma è che si ritira dalla lotta è un gran fio della mignotta. Bernardini non lo persuadeva, ma non lo persuadeva come tipo di gioco. Quello che ho saputo da vecchi giocatori di allora era che Bernardini era un grandissimo, però era un po' atipico per il modo di giocare che aveva in mente Pozzo, e quindi mi sembra che Pozzo diceva: è troppo bravo per giocare in nazionale. Avete sentito Sandro Mazzola, attaccante dell'Inter dal 66 al 77. Il primo grande successo di Pozzo è la vittoria della Coppa Internazionale, un torneo ideato da Hugo Meisl. Inizialmente riservato ad Austria, Ungheria e Cecoslovacchia, e poi aperto anche a Svizzera e Italia. In palio una coppa di cristallo di Boemia, con un clamoroso 5-0 inflitto agli ungheresi grazie anche alla tripletta di Meazza. L'11 maggio 1930 a Budapest l'Italia si aggiudica la prima edizione. Un anno più tardi, nella seconda edizione del torneo, nel febbraio del 31, l'Italia, anche se non vince, si toglie comunque un'altra piccola soddisfazione, 2-1 al team prodigio austriaco. Tra le poche sconfitte, quella del 20 marzo del 32 a Vienna. Un solo gol di Meazza non basta a pareggiare la doppietta di Matthias Sindelar, il campione austriaco che morirà suicida nel 39, poco dopo l'annessione dell'Austria alla Germania di Hitler. Nel 1934 l'Italia di Mussolini ospita la seconda edizione dei campionati mondiali, con in palio la Coppa Rimé. Per il regime c'è un solo imperativo: vincere. E Pozzo, che ne è perfettamente consapevole, non lascia nulla al caso. Per la preselezione dei 22 titolari convoca 70 giocatori. Uno stillicidio, lo definirà in seguito. Ma intanto si occupa personalmente di tutto, dalla distribuzione delle camere alla scelta dei pasti. Io credo che da quello che poi ho sentito da allenatori che ho avuto, Valcareggi, Fabbri, o giocatori, Lorenzi, Boniperti, eccetera, che per quell'epoca era un innovatore. Cioè, adesso noi sentiamo parlare del Club Italia, no? Che è una cosa di Sacchi, cioè. Beh, io credo che lui sia stato il primo a creare il Club Italia. Avete sentito Sandro Mazzola, attaccante dell'Inter negli anni 60. Roma, 27 maggio 1934. L'Italia fa il suo esordio contro gli Stati Uniti. È una vittoria facile, addirittura 7-1. Ai quarti di finale gli azzurri si trovano davanti la Spagna del grande portiere Zamora. Il 31 maggio a Firenze ai supplementari l'incontro finisce 1-1 con reti di Regueiro e Ferrari. La partita va rigiocata. 24 ore dopo l'Italia vince 1-0, gol di Meazza. Ma gli spagnoli protestano duramente per l'arbitraggio. Milano, 3 giugno 1934. Ancora una vittoria, 1-0, stavolta sull'Austria. Roma, 10 giugno 1934. È il giorno della finalissima contro la Cecoslovacchia, davanti a 50.000 spettatori paganti. Mix 24, la storia. Alla finale del 34 Mussolini ha pagato il biglietto, ecco. Allora Arpinati contentissimo, e poi ha tentato di far pagare il biglietto a Starace, e Starace lo ha lo ha messo in cattiva luce nei confronti di Mussolini, allora Mussolini l'ha mandato al confine. Bentornati su Mix 24. Avete sentito Alberto Pozzo, figlio di Vittorio. Oggi stiamo raccontando la storia di questo campione. Allenatore dell'Italia nella finale del 34. Pozzo schiera Combi, Mozzeglio, Alemandi, Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari e Orsi. Sfortunati gli avversari che colpiscono tre pali. La rete di Pucca al 70° viene pareggiata 10 minuti più tardi da Orsi. Ancora tempi supplementari. Pozzo inverte le posizioni dei laterali e degli attaccanti. Su passaggio di Guaita è Schiavio a regalare all'Italia la gioia della vittoria. A parlarcene il regista Mario Monicelli e il giornalista Antonio Ghirelli. Io ero un ragazzo, ma insieme ai miei amici eravamo un po', insomma, esaltati dal fatto che vincevamo i campionati del mondo, però al tempo stesso un po' perplessi, perché questi grandi giocatori della nazionale, poi alla fine per i 5, 6, 4, 11esimi, erano fatti da cosiddetti oriundi, che non erano italiani, erano argentini. Beh no, ha vinto con un paio di oriundi, ma... Per esempio nel 38 non ha vinto con gli oriundi e a Berlino non ha vinto con gli oriundi. No, lui vinceva con questo straordinario carisma che aveva. Assente ai mondiali per il rifiuto di mettere in gioco la sua leggendaria superiorità, l'Inghilterra accetta di sfidare l'Italia campione del mondo a Londra il 14 novembre del 34. Al 12° minuto gli azzurri hanno già incassato 3 gol, ma nel secondo tempo uno strepitoso Meazza segna 2 reti e sfiora il pareggio. Gli inglesi vincono 3-2, ma agli azzurri resta la fama di leoni di Highbury. L'immaginario allora era soprattutto affidato, direi, a 2 elementi. Da un lato le figurine. L'elemento figurina era molto importante, al di là di quelle famose dei 4 moschettieri di quegli anni, siamo a metà degli anni 30, no? Figurine che si trovavano nelle tavolette, nei dolciumi, soprattutto nelle tavolette di cioccolato. Quindi c'era questa componente. L'altra componente era quella del fumetto. Fumetto però che allora non trattava molto lo sport, ogni tanto trattava qualche personaggio. Esempio classico, Meazza. Meazza era diventato un personaggio dei fumetti. Così lo storico del cinema Claudio Bertieri. 1935, si torna a giocare la Coppa Internazionale. Il 24 marzo a Vienna, nella partita Austria-Italia, esordisce Silvio Piola. 20 anni, centroavanti della Lazio, cresciuto nella storica Pro Vercelli. Assente Meazza, Piola rifila 2 gol agli austriaci. È nata una stella. Ce ne parla il direttore del museo di Coverciano, Fino Fini. Piola è un grande atleta, grandissimo. Gioca la prima partita in nazionale nel 35. Prende la maglia e la dona alla mamma. La mamma dice dentro di sé, ma che bella cosa che mi ha dato mio figlio. Me la tengo solo per me. Tanto per sé che la mette in un cassetto e forse la mamma di quando in quando apre questo cassetto, bacia questa reliquia, questa maglia, e la ripone. Passa un po' di tempo e la mamma decide di eternare sulla maglia del figlio l'evento e ricama con le sue stesse mani quello che si può leggere. Vienna, 24 marzo 1935, Austria 0, Italia 2. Piola ha segnato entrambi i gol. 24 novembre del 35, a Milano, l'Italia si aggiudica la Coppa Internazionale per la seconda volta, grazie al pareggio per 2-2 contro l'Ungheria di Sarosi. Per la nazionale di Pozzo è la prima di 30 vittorie consecutive. Berlino, 1 agosto del 36. Si aprono i 10° giochi olimpici fortemente voluti da Hitler per celebrare la superiorità della razza ariana. Esclusi per regolamento i professionisti, Pozzo compie il suo capolavoro allestendo in breve tempo una formazione di giocatori presi da squadre di Serie A e B e tutti rigorosamente studenti. La squadra gode di poco credito, ma l'occhialuto Annibale Frossi la trascina fino alla finale contro l'Austria, dove segna 2 reti. Medaglia d'oro, come era accaduto pochi giorni prima ad Ondina Valla negli 80 d'ostacoli. È il 1938. Con l'Austria di fatto cancellata come nazione e la Spagna sconvolta dalla guerra civile, l'Italia parte favorita ai mondiali che si disputano in Francia. Eppure agli ottavi la vittoria contro la Norvegia a Marsiglia è stentata. ottenuta solo grazie ad un gol di Piola ai supplementari. Poi, il 12 giugno a Parigi, l'Italia incontra nei quarti i padroni di casa, la Francia. Come racconta il direttore del Museo del Calcio, Fino Fini. Tarace, il segretario generale del fascio, disse a Mussolini: vogliamo dare uno schiaffo ai francesi? Mussolini: certo, diamogli questo schiaffo. Ma cosa si intende uno schiaffo? Far giocare l'Italia con la maglia nera. Ah, che bella idea, disse Mussolini. Sentiamo un pochino Pozzo. Pozzo era molto restio a cambiare evidentemente dall'azzurro, per lui un emblema vero, autentico, di italianità. A Parigi pullulava di italiani, di transfughi. Tra l'altro c'era anche il presidente Pertini, che era evidentemente, si trovava a Parigi in quel periodo. Giocammo una partita stupenda, però quando si entrò allo stadio, indossando la maglia nera e il saluto romano, i fischi degli francesi presenti e degli italiani che erano fuggiti dall'Italia fischiarono l'Italia in una maniera spaventosa, urli, fischi da tutte le parti. Se non che giocammo una partita stupenda, vincemmo 3-1. A fine gara tutti applaudirono l'Italia. Vuol dire che quando si gioca a calcio e si gioca bene, la politica non c'entra più. Si giocò quella partita e poi prima e dopo sempre in azzurro. Sconfitto in semifinale il Brasile per 2-1, il 19 giugno è il giorno della finalissima. Ancora una volta l'Italia si trova davanti l'Ungheria di Capitan Sarosi. Pochi passaggi e contropiede rapido. È la chiave del gioco all'italiana. Segna subito Colaussi. Pareggio ungherese al settimo minuto per un felice rinvio della difesa azzurra. Vano il gol di Sarosi al 70esimo e ancora l'Italia a segnare, naturalmente con Piola. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi sono i nuovi campioni del mondo. Capitano del nostro 11 sale in tribuna d'onore per ricevere dal presidente Lebrun l'ambitissima Coppa d'Oro. Il Duce riceve i calciatori azzurri che hanno assicurato all'Italia la Coppa del Mondo, presentati dal ministro segretario del partito, presidente del CONI. Il Mondiale del 38 sarà per Pozzo l'ultimo trofeo. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia incontra l'Inghilterra. È una grande partita, con gli azzurri che arrivano ad un passo dalla vittoria. Meazza, già nel primo tempo assorbito da compiti difensivi, fu un secondo centro sostegno della ripresa. Questa è stato Piola a metterla nella rete. Il risultato finale a Milano è di 2-2. Per l'Italia calcistica, gli inglesi restano la bestia nera. Al termine della stagione 41-42, la Roma vince il suo primo scudetto. L'anno dopo, invece, ad imporsi è il primo nucleo di quello che sarà il grande Torino. Poi, nel 43, con l'intensificarsi dei bombardamenti, lo sbarco alleato, l'armistizio, il paese diviso in due dall'occupazione nazifascista, anche il calcio è costretto a fermarsi. A parlarcene Alberto Pozzo, figlio di Vittorio. Hanno costretto un patriota come me a sperare che si perda la guerra. Questa frase io l'ho sentita dire nel 42-43, dall'inizio della guerra, dell'entrata in guerra dell'Italia, 10 giugno 40. Abbiamo preso i bombardamenti in testa per 2 anni, poi con l'intensificarsi dei bombardamenti, novembre 42, siamo scappati a Ponderano, nella casa di famiglia. Ma Pozzo, che in questi mesi ha fatto la spola tra Torino e il Biellese, dove è sfollata la famiglia, ha ormai preso la sua decisione. Aderire al Comitato di Liberazione Nazionale. Ancora Alberto Pozzo. Si dichiara che il commendatore Vittorio Pozzo ha collaborato fin dal settembre 43 con questo CLN, con compiti particolari, organizzare aiuti alla fuga dei prigionieri alleati. A guerra finita, Pozzo è di nuovo alla guida della nazionale. A sostituire i campioni del mondo ci sono ora i giocatori del grande Torino, di cui lo stesso Pozzo è stato il motore e l'animatore, come conferma il figlio, Alberto. 8 dei giocatori del grande Torino li ha portati in nazionale Vittorio Pozzo quando non erano ancora del Torino. Mazzola è il capitano. Questa formazione granata, già campione d'Italia nel 42-43, sarà protagonista di un clamoroso quinquennio analogo a quello juventino degli anni 30. Vincerà 4 scudetti di seguito. Darà alla nazionale un contributo determinante per la prima riscossa del calcio azzurro. Sarà la base del vero e proprio boom che il football registrerà soprattutto in senso spettacolare. Ma noi dovevamo star zitti, loro dominavano. Ma io ho un ricordo magnifico che io, quando ho giocato in nazionale con loro, Mazzola è tornato e è andato da Pozzo e gli ha detto: bisogna prendere buoni perdi. Questo ricordo che c'ho io. E Novo mi ha chiamato. E ho detto: ma Presidente, io sono della Juventus, io sono tifoso della Juventus, non posso venire a giocare nel Torino. E anzi, miro tutta questa squadra, ma io sono della Juventus, gioco nella Juventus. Avete sentito Giampiero Boniperti. Torino, 16 maggio 1948. 50 anni dopo quella partita di Genova per la quale si era venduto i libri di scuola, Pozzo è ancora ai bordi di un campo di calcio. Vuole coronare l'ultimo sogno, sconfiggere con la sua Italia la nazionale inglese. Gelba è venuto a rappresentare il governo. Prende posto nella tribuna di onore con Andreotti e Onesti. C'era Bacigalupo, Ballarini, Grezzar, Menti II, Loic, Gabetti e Mazzola, sì. Non del Torino c'era Eliani, Annovazzi del Milan, Parola della Juve, Carapellese. Tocca agli italiani di giocare la palla. Quinto minuto, un accorto lancio dell'ala destra è abilmente sfruttato da Mortensen. Tiro tagliato, Bacigalupo non riesce a parare. Dodicesimo minuto, passaggio di Loic. Menti segna, ma l'arbitro annulla per fuori gioco. 2-0. 43esimo minuto, la Scarogna perseguita gli azzurri. Carapellese fila verso la rete. Swift lo affronta, para la prima volta, para una seconda, alla terza il tiro di Loic a porta vuota e fuori. Prova da mangiarsi le mani. Battuti per 2-0, gli azzurri possono ancora recuperare. Nel 34 a Londra segnarono 2 volte nella ripresa. Ma oggi tutto congiura contro gli azzurri. 26esimo minuto, 2 volte 13. Mannion aggira l'ostacolo, Grezzar si trasferisce a destra e con un tempismo sbalorditivo dipinge uno sfiovente delicato a Finney, che si affretta a sdebitarsi dell'omaggio convertendolo in un gol senza remissione. 3-0. Il pubblico lo sfolla. Ha visto una partita non lieta, ma almeno ha visto un esempio bellissimo di gioco. Contro la nostra esuberanza talvolta un po' gesticolata, ha vinto il modo britannico di tenere la palla a terra, strumento di puro gioco del calcio. Si è imposta l'atletica e fulminante velocità degli uomini che accorcia il campo. Giocare, ci hanno insegnato gli inglesi, non è un gioco. Eravamo al settimo cielo per aver battuto i campioni italiani. C'è stato qualcuno che ha scritto: mortificante tramonto di Pozzo dei suoi. Dopo la guerra l'Italia di Vittorio Pozzo gioca 10 partite. 6 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte. Non è poi così disastroso, eh? Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di un fuoriclasse, Vittorio Pozzo. La sconfitta con l'Inghilterra del 16 maggio del 48 segna la fine della carriera di Vittorio Pozzo come allenatore. A sostituirlo viene chiamato Ferruccio Novo, presidente del Torino. Se per Novo il conflitto di potere e di competenza è evidente, Pozzo per parte sua rifiuta qualsiasi incarico federale. Continuerà a seguire i suoi ragazzi in veste di giornalista. Avrebbe dovuto essere al fianco dei suoi ragazzi come inviato anche sull'aereo di ritorno da Lisbona quel tragico 4 maggio del 1949. Ce ne parlano il figlio Alberto Pozzo e il giornalista Antonio Ghirelli. Una volta sistemati tutti c'erano 3 posti. Il Toro li offre ai 3 giornali torinesi. Gazzetta del Popolo dice Tosatti, Tutto Sport dice Casalbore, che era il fondatore, La Stampa dice Pozzo. Telefonata del Toro: no, non vogliamo Pozzo sull'aereo, vogliamo Luigi Cavallero. Oh, commendatore, la stiamo cercando. Perché? Cosa c'è? Non lo sa, è morto il Torino. Lo portano su a Superga, va su e ancora lì. Johansen lo vede arrivare, lì c'erano carabinieri, celerini che stavano spostando, dando fuori dei rottami i cadaveri. Johansen gli batte sulla spalla, gli fa: you are boys, i suoi ragazzi. E lì vicino c'era un graduato dei carabinieri che fa: ecco chi è che può fare l'identificazione, è lei che li conosce tutti. Conosce la corporatura, perché li ha avuti in nazionale, li ha visti nudi negli spogliatoi? Oh no, non mi faccia fare sta cosa. Oh, guarda, glielo faccio dire dal procuratore della Repubblica che è arrivato adesso. Arriva il procuratore della Repubblica, cioè, senta, vorremmo che l'identificazione la facesse il commendator Pozzo. Lui tenta ancora di dire no. Il procuratore gli dice: commendatore, se non lo fa lei, che li conosce tutti, sa cosa dobbiamo fare? Vuol dire che dobbiamo chiamare 31 famiglie. Lui piangeva quando li ha dovuti riconoscere. Era un uomo che non avevo nemmeno immaginato che potesse piangere mai nella vita. E quella volta ha pianto. Viene incaricato Vittorio Pozzo dell'orazione ufficiale. Di ognuno ha detto l'albo d'oro. Quante volte nazionale, quante volte campione d'Italia, quante volte vincitore. E a un certo punto c'è la frase che mi è rimasta impressa: non vedremo più sbucare dal sottopassaggio il ciuffo volitivo di Capitan Valentino. Questi erano i primi calci che Mazzoli insegnava al suo primogenito Sandrino. Il ragazzo crescerà come atleta nella scuola dell'Inter. È stato molto difficile perché, cioè, col senno di poi, quando hai una certa età, capisci perché la gente mi veniva a vedere e voleva vedere il padre. Però quando ero ragazzino questo non lo capivo. Avete sentito l'attaccante Sandro Mazzola. Per 20 anni da quel fatidico match con l'Inghilterra, Vittorio Pozzo continua a vivere di calcio. Ferito dalle polemiche sui suoi trascorsi fascisti, si spende in un'inesausta attività di cronista e resta un punto di riferimento per più di una generazione di atleti. A raccontarcelo i giornalisti Bruno Bernardi, Antonio Ghirelli e il figlio Alberto Pozzo. Era un uomo che faceva, come dire, opinione. Ricordo che mi capitava di andare il lunedì a bere un caffè al bar e sentire persone che discutevano della partita della Juventus del Torino del giorno precedente, e a un certo punto la discussione si faceva animata, poi uno dei due, più di una volta mi è capitato di sentire, diceva: ma l'ha scritto Pozzo sulla stampa, quindi cosa stai dicendo? Allora l'altro immediatamente cessava di contrastare, di controbattere, diceva: se l'ha scritto Pozzo, allora hai ragione tu. Ecco, questo era Vittorio Pozzo, il giornalista Vittorio Pozzo. Io ricordo una partita con la Germania, se non sbaglio a Francoforte, della nazionale, e Pozzo aveva 84 anni. E alle 10:30 è finita questa partita, e alle 11:00 io avevo già telefonato, passo vicino a Pozzo, che io consideravo Paolo VI per me, e lui stava telefonando a Torino il pezzo alle 11 di sera, 84 anni. Mi è capitato di avere qualche sortita all'estero dove ho notato avrebbe potuto tranquillamente non esibire il passaporto, tanta era la sua popolarità. Allora, intitolare uno stadio dedicato al calcio a Torino, a Vittorio Pozzo, mi permetto di dire, era scontato come dare il nome di un teatro a Asti o a Venezia. Io dico che lo meritava Pozzo per la semplice ragione che è stato campione del mondo due volte, ha guidato la nazionale due volte campione del mondo, in quella nazionale, visto che lo considerano troppo granata, non, in quella nazionale non c'erano granata, come non ce n'erano nella nazionale che vinse le Olimpiadi di Berlino del 38. Vittorio Pozzo è stato tutto nel Toro, ha fatto tutto e di più nel Torino Calcio, ha anche convocato 10 giocatori del Toro in una partita, anzi li ha utilizzati contro l'Ungheria nel 47 proprio allo stadio comunale, quindi rappresentava il calcio a livello globale, sia torinese che italiano che nazionale. E il fatto che non sia stato un grande calciatore non contava nulla, secondo me, e ripeto, è un reato di leso calcio non avergli intitolato lo stadio. È impossibile fare un film sul calcio in cui si possa veramente raccontare il calcio com'è. La storia del calcio andrebbe divulgata di più, perché parlo anche come direttore della scuola di Coverciano e come presidente del settore tecnico. Ecco perché noi amiamo questi personaggi come Pozzo, come Piola o come Boniperti. Se lei mette in una stanza 10 giocattoli e fra questi una palla rotonda e mette un bambino di 3-4 anni, lui, il primo giocattolo che va a prendere è questa palla rotonda e gli dà subito un calcio. Quindi bisogna che la gente pensi, che i dirigenti pensino a queste cose per fare di tutto per salvare questo sport. Il primo articolo del regolamento di calcio è il fair play. Troppi soldi non fanno un fair play, eh? Io, tra le altre cose, ho questo documento sonoro che riguarda il 1938 con le voci di Meazza e di Vittorio Pozzo. Quando abbiamo sentito il fischio finale dell'arbitro, ci siamo stretti tutti attorno alla nostra guida, al nostro maestro Vittorio Pozzo. Io stesso, a tanta distanza di tempo, quando ci prendo, mi ritengo vinto da una commozione irrefrenabile. Mix 24.